Nei tuoi occhi ho visto i girasoli di Van Gogh e ti ho sentita più vicina per un attimo. Ho dato tutto ciò che avevo fino a perderlo. Il nostro amore è come arte in ogni secolo.